Il mattino successivo, all'insaputa di Dorotea, Mr. Casebo spedì la lettera seguente, che cominciava: Caro Mr. Ladislav. In precedenza si era sempre rivolto a lui come Will. Mrs. Casebo mi informa che vi è stata fatta una proposta che, in base a una deduzione per nulla forzata, in certo grado è stata presa in considerazione da parte vostra. Essa comporta la vostra residenza in questi luoghi. In una mansione che mi sento giustificato ad affermare, tocca la mia posizione in tal modo da rendere non solo naturale e giustificabile da parte mia, quando quell'effetto sia considerato alla luce di sentimenti legittimi, ma anche doveroso, quando lo stesso effetto sia considerato alla luce delle mie responsabilità, dichiarare immediatamente che la vostra accettazione della proposta sommenzionata sarebbe altamente offensiva nei miei confronti. Che io abbia un qualche diritto a esercitare un veto su questo punto non sarebbe, credo, negato da qualsiasi persona ragionevole al corrente dei nostri rapporti. Rapporti che, sebbene relegati nel passato dal vostro recente comportamento, non sono per questo annullati nel loro carattere di precedenti determinanti. Non farò qui alcuna riflessione sul buonsenso di qualsiasi persona. Mi basta farvi notare che ci sono certe convenienze e proprietà che potrebbero sconsigliare a un mio parente piuttosto prossimo di mettersi in qualche modo in luce in questi dintorni, in una posizione sociale non solo di molto inferiore alla mia, ma legata, nel migliore dei casi, alla conoscenza superficiale di avventurieri letterari e politici. Ad ogni modo, una decisione contraria dovrà escludervi da ulteriori visite a casa mia. Edward Casebo. Frattanto la mente di Dorotea era innocentemente all'opera per amareggiare ulteriormente il marito, indugiando con una simpatia che divenne agitazione su ciò che Will aveva raccontato dei propri genitori e nonni. Qualsiasi ora da dedicare a sé nella giornata la trascorreva di solito nel suo boudoir verde azzurro, il cui pallido aspetto pittoresco era giunto ad esserle molto caro. Nulla vi era stato mutato esteriormente, ma mentre l'estate era avanzata poco a poco sui campi ad occidente, oltre il viale di Olmi, la stanza spoglia aveva raccolto in sé quei ricordi di una vita interiore che sembrano riempire l'atmosfera di una nube di angeli buoni o cattivi, le forme invisibili eppure attive dei nostri trionfi o delle nostre cadute spirituali. Si era così abituata a lottare per raggiungere e trovare una determinazione guardando lungo il viale verso l'arco di luce ad occidente, che il panorama stesso aveva acquistato una forza comunicativa. Persino il pallido cervo pareva avere sguardi rievocatori e dire muto: Sì, noi sappiamo. E il gruppo di miniature, dalle tinte delicate, avevano costituito un pubblico non più turbato dal proprio destino terreno, ma ancora colmo di interessi umani. Soprattutto la misteriosa zia Giulia, sulla quale Dorotea non aveva mai trovato facile interrogare il marito. E ora, dalla sua conversazione con Will, molte nuove immagini si erano assiepate attorno a quella zia Giulia, che era la nonna di Will. La presenza della delicata miniatura, così simile a un volto vivo che lei conosceva, le era di aiuto per concentrare i propri sentimenti. Che torto escludere la fanciulla dalla protezione della famiglia e dall'eredità solo perché aveva scelto un uomo che era povero. Dorotea, infastidendo fin dalla più tenera età le persone più anziane di lei con domande sulle cose che la circondavano, era giunta a chiarirsi un po' da soli i motivi politici e storici per cui i primogeniti avevano dei diritti maggiori e perché la terra era lasciata in eredità inalienabile. Quei motivi che le imprimevano una certa soggezione potevano essere più importanti di quanto sapesse, ma qui si trattava di una questione di legami che non erano in contrasto con essi. Ecco una figlia il cui bambino, anche secondo le ordinarie scimmiottature delle istituzioni aristocratiche da parte di persone che non sono più aristocratiche di droghieri in pensione, che non hanno altra terra da mantenere intatta che un prato e un recinto, avrebbe avuto un diritto maggiore. L'eredità era una questione di simpatia o di responsabilità? La natura di Dorotea propendeva con tutta la propria forza per la responsabilità, la soddisfazione di diritti fondati sulle nostre azioni, quali il matrimonio e la parentela. Era vero, si disse, che Mr. Casebo aveva un debito verso i Ladislav, che egli doveva ripagare ciò di cui i Ladislav erano stati privati a torto, e ora cominciò a riflettere sul testamento del marito che era stato redatto al momento del matrimonio, con cui il grosso della proprietà veniva lasciato a lei, con clausole condizionali nel caso avesse avuto dei figli. Doveva essere cambiato e senza perdere tempo. Lo stesso problema, che era appena sorto sull'occupazione di Will Ladislav, era l'occasione buona per mettere le cose su un nuovo giusto piano. Il marito ne era certo, in armonia con tutta la sua condotta precedente, sarebbe stato pronto ad accogliere il giusto modo di vedere se lei glielo avesse proposto, lei nel cui interesse era stata sollecitata a un'ingiusta concentrazione della proprietà. In lui il senso della giustizia aveva superato e avrebbe continuato a superare qualsiasi cosa che si potesse chiamare antipatia. Sospettava che il piano dello zio fosse disapprovato da Mr. Casebo e questo faceva sembrare tanto più opportuno che si ponessero le basi di un nuovo accordo, così che Will, invece di cominciare senza un soldo in tasca ed accettare la più mansione che gli si offriva, si sarebbe trovato in possesso di un reddito legittimo che gli sarebbe stato pagato dal marito finché questi viveva e con un'immediata alterazione del testamento gli sarebbe stata assicurata la sua morte. La visione di tutto ciò, come un atto doveroso, parve a Dorotea come se un improvviso raggio di luce la destasse dalla sua precedente stupidità e dall'incurante, egoistica ignoranza riguardo ai rapporti del marito con gli altri. Will Ladislav aveva rifiutato di essere aiutato in futuro da Mr. Casebo per un motivo che non le appariva più valido e Mr. Casebo stesso non si era mai reso conto pienamente di quello che era il suo dovere. Ma se ne accorgerà, disse Dorotea, la grande forza del suo carattere risiede in questo. E cosa ce ne facciamo dei nostri soldi? Non spendiamo la metà del nostro reddito. I miei soldi non mi danno niente tranne una coscienza inquieta. Questa divisione di una proprietà destinata a lei sola e da sempre considerata da lei eccessiva affascinava Dorotea in modo particolare. Era cieca, capite? A molte cose ovvie ad altri, e c'era la possibilità che facesse dei passi falsi, come l'aveva ammonita Celia. Eppure, la cecità di fronte a qualsiasi cosa che non fosse in linea con la sua purezza di intenti, la portava sana e salva sull'orlo di precipizi, la cui osservazione, la paura, avrebbero reso pericolosa. I pensieri che avevano assunto chiarezza nella solitudine del suo boudoir la tennero incessantemente occupata per tutto il giorno in cui Mr. Casebo aveva inviato la sua lettera a Will. Tutto le parve d'intralcio finché non potesse trovare l'occasione propizia per aprire il proprio cuore al marito. Alla sua mente preoccupata, ogni argomento doveva essere posto con dolcezza e la moglie non si era mai, dal tempo della sua malattia, lasciata sfuggire di mente il timore di agitarlo. Ma quando un ardore giovanile si pone a riflettere sulla concezione di un'azione immediata, l'azione stessa sembra balzare fuori dotata di vita indipendente, superando ostacoli immaginari. Il giorno passò tristemente, cosa non inconsueta, sebbene Mr. Casebo fosse forse insolitamente silenzioso, ma c'erano ore della notte su cui si poteva contare come occasioni propizie di conversazione. Infatti Dorotea, quando capiva che il marito era in preda all'insonnia, aveva preso l'abitudine di alzarsi, accendere una candela e leggere per farlo addormentare di nuovo. E quella notte lei fu insonne fin dall'inizio, eccitata da fermi propositi. Egli dormì come di consueto alcune ore, ma lei si era alzata in silenzio ed era rimasta seduta nell'oscurità per quasi un'ora prima che egli dicesse: Dorotea, dal momento che siete alzata, volete accendere una candela? Vi sentite male, caro? Fu la prima domanda mentre egli ubbidiva. No, assolutamente. Ma vi sarò grato, poiché siete alzata, se mi leggerete alcune pagine di Lowth. Posso parlarvi un po' invece? Chiese Dorotea. Certamente. È tutto il giorno che sto pensando al denaro, che ne ho sempre avuto troppo, e soprattutto alla prospettiva di averne troppo. Queste, mia cara, sono disposizioni della provvidenza. Ma se uno ne ha troppo, a seguito di torti subiti da altri, mi sembra che bisognerebbe ubbidire alla voce divina che ci dice di riparare a quei torti. Amore mio, con cosa ha attinenza la vostra osservazione? Col fatto che voi siete stato troppo generoso nei vostri progetti per me, voglio dire, riguardo alla proprietà, e questo mi rende infelice. Come mai? Io non ho nessuno se non dei parenti piuttosto lontani. Sono stata portata a pensare a vostra zia Giulia e a come fu lasciata in povertà solo perché sposò un uomo povero, un gesto non vergognoso, poiché egli non era una persona indegna. È stato per quel motivo, lo so, che voi avete mantenuto gli studi Mr. Ladislav e avete provveduto a sua madre. Dorothea restò per qualche momento in attesa di una risposta che l'aiutasse ad andare avanti. Non ne giunse alcuna, e le parole che pronunciò dopo le parvero tanto più convincenti, cadendo cristalline nel silenzio buio. Ma certo, dovremmo considerare il suo diritto di gran lunga maggiore, addirittura per quel che riguarda la metà di quella proprietà che so che mi avete destinato. E penso che bisognerebbe pensare al suo mantenimento sulla base di questo accordo. Non è giusto che egli sia alla mercé della miseria mentre noi siamo ricchi. E se esiste una qualche obiezione alla proposta a cui egli ha fatto cenno, dargli il posto dovuto e la parte dovuta annullerebbe ogni motivo perché lui l'accetti. Mister Ladislav vi ha forse parlato di questo argomento? Chiese Chesebo con una certa caustica rapidità per lui insolita. Certamente no, disse Dorotea seria. Come potete immaginarlo? Dato che solo poco tempo fa ha rifiutato ogni cosa da voi. Temo che lo giudicate con troppa durezza, caro. Ne ho solo parlato un po' dei genitori e dei nonni, quasi tutto in risposta a delle mie domande. Voi siete così buono, così giusto, avete fatto tutto ciò che tenevate giusto, ma mi sembra chiaro che la giustizia vada più in là e io devo parlarne, poiché io sono la persona che trarrebbe quel che si suol dire beneficio se quel di più non venisse fatto. Si avvertì una pausa prima che Mister Chesebo ribattesse, non con la rapidità di prima, ma con un'enfasi ancora più caustica. Dorotea, amor mio, questa non è la mia prima occasione, ma sarebbe bene che fosse l'ultima in cui assumete una posizione su argomenti che sono al di là della vostra portata. Nella questione riguardo al punto in cui la condotta, soprattutto in materia di matrimoni, comporti la perdita di diritti familiari, ora non voglio addentrarmi. Vi basti sapere che non siete qualificata a giudicare. Ciò che ora desidero che voi capiate è che non accetto alcuna revisione e ancor meno degli ordini in quella sfera di cose su cui ho riflettuto di mia distinta e giusta pertinenza. Non sta a voi interferire fra me e Mister Ladislav e ancor meno incoraggiare da lui delle informazioni che costituiscono una critica al mio operato. La povera Dorotea, avvolta nell'oscurità, era in preda a un tumulto di sentimenti contrastanti. Il timore per il possibile effetto che quell'accesso di ira avrebbe potuto avere sul marito avrebbe soffocato ogni espressione del suo risentimento, anche se fosse stata completamente priva di dubbi e di rimorsi, consapevole com'era che nella sua ultima insinuazione ci fosse una certa giustizia. Nell'udirlo respirare a ritmo rapido, dopo che aveva parlato, rimase seduta ad ascoltare, impaurita, preoccupata, con un muto grido di aiuto in cuore per poter sopportare questa vita da incubo in cui ogni energia era frenata dal timore. Ma non accadde altro, se non che entrambi restarono a lungo insonni, senza riprendere a parlare. Il giorno successivo, Mister Chesebo ricevette la seguente risposta da Will Ladislav. Caro Mister Chesebo, ho dedicato tutta la dovuta considerazione alla vostra lettera di ieri, ma non posso considerare esattamente il vostro punto di vista riguardo alle nostre posizioni reciproche. Riconoscendo pienamente la vostra generosa condotta verso di me in passato, devo tuttavia sostenere che un obbligo di questo genere non mi può completamente vincolare come pare che vi aspettiate. Dato per scontato che i desideri di un benefattore possono costituire un diritto, vi deve essere sempre un limite alla qualità di quei desideri. È probabile che si scontrino con considerazioni più impellenti, altrimenti il veto di un benefattore potrebbe imporre una tale negazione alla vita di un uomo che il vuoto che ne segue potrebbe essere più crudele di quanto sia stata generosa l'opera buona. Sto semplicemente servendomi di esemplificazioni vivide. Nel caso attuale non posso condividere il vostro punto di vista sul peso che l'accettazione di un impiego da parte mia, certo non remunerativo, ma non disonorevole, avrà sulla vostra posizione, che mi sembra troppo solida per subirne le conseguenze in quel modo fantastico. E sebbene non creda che nei nostri rapporti si verificherà alcun cambiamento, certo finora non se n'è verificato nessuno, che possa cancellare gli obblighi imposti dal passato, perdonatemi se non vedo come quegli obblighi possano impedirmi di usare dell'ordinaria libertà di vivere dove preferisco e di mantenermi con qualsiasi legittima occupazione possa gradire. Dolendomi che esista questo contrasto fra di noi riguardo a un rapporto in cui la facoltà di conferire benefici è stata interamente vostra, Resto a voi perennemente obbligato, Will Ladislav. Il povero Mr. Casaubon ebbe l'impressione, e noi persone imparziali non dobbiamo condividerla un po', che nessuno fosse più di lui giustificato a sentirsi disgustato e sospettoso. Il giovane Ladislav, ne era certo, intendeva sfidarlo e irritarlo, intendeva accattivarsi la fiducia di Dorotea e seminare nel suo cuore l'irriverenza e magari l'avversione per il marito. Era necessario che ci fossero dei motivi nascosti per spiegare l'improvviso cambiamento di condotta di Will nel rifiutare l'aiuto di Mr. Casaubon e smettere di viaggiare. E questa provocatoria decisione di sistemarsi nella zona, accettando una cosa talmente in contrasto con la sua scelta precedente, come erano i progetti di Mr. Brooke a Middlemarch, rivelava abbastanza chiaramente che il motivo non dichiarato era il rapporto con Dorotea. Neppure per un attimo Mr. Casaubon sospettò Dorotea di alcuna duplicità, non nutriva alcun sospetto su di lei, ma sapeva con certezza, il che non lo confortava di molto, che alla sua tendenza a farsi delle opinioni sulla condotta del marito si associava un'inclinazione a considerare con favore Will Ladislav e a lasciarsi influenzare da quello che egli diceva. La sua stessa orgogliosa reticenza le aveva sempre impedito di ricredersi dall'ingannevole sospetto che Dorotea avesse per prima chiesto allo zio di invitare Will a casa sua. E ora, nel ricevere la lettera di Will, Mr. Casaubon dovette considerare qual era il suo dovere. Non sarebbe mai stato facile chiamare la sua azione in altro modo che dovere. Ma in questo caso motivi contrastanti lo ricacciarono su posizioni negative. Si sarebbe dovuto rivolgere direttamente a Mr. Brooke e chiedere a quel fastidioso gentiluomo di revocare la propria proposta, o avrebbe dovuto consultare Sir James Chatham e indurlo a protestare insieme a lui contro un passo che toccava l'intera famiglia. In entrambi i casi Mr. Casaubon si rendeva conto che un fallimento era altrettanto possibile quanto un successo. Gli era impossibile fare il nome di Dorotea nella vicenda e senza una qualche insistenza allarmata era più probabile che Mr. Brooke, dopo aver accolto ogni protesta con apparente consenso, terminasse dicendo: «Non temete, Casaubon, credete a me, il giovane Ladislav vi farà onore. Credete a me, ho messo la mano sulla persona giusta». E Mr. Casaubon rifuggiva dall'idea di discutere dell'argomento con Sir James Chatham, con il quale non c'era mai stata cordialità e che avrebbe subito pensato a Dorotea senza che si facesse minimamente il suo nome. Il povero Mr. Casaubon diffidava dei sentimenti di tutti nei propri confronti, soprattutto in quanto marito. Lasciar supporre a chiunque di essere geloso avrebbe significato giustificare la loro sospettata opinione riguardo ai suoi svantaggi. Far loro sapere che non trovava il matrimonio un particolare paradiso avrebbe sottinteso la sua conversione alla loro probabile precedente disapprovazione. Sarebbe stato sconsiderato come far sapere a Carp e a Brasenose in generale come era indietro nell'organizzazione il materiale per la sua chiave di tutte le mitologie. Per tutta la vita Mr. Casaubon aveva tentato di non ammettere, neppure a se stesso, le piaghe interiori della sfiducia nelle proprie forze e della gelosia. E sul più delicato di ogni argomento personale, l'abitudine a un'orgogliosa, sospettosa reticenza pesava doppiamente. Così Mr. Casaubon conservò un orgoglioso e amaro silenzio, ma aveva proibito a Will di venire a Lowick Manor e stava mentalmente preparando altri mezzi per frustrarlo. Capitolo 38. Sir James Chatham non poteva provare alcuna soddisfazione per la nuova strada imboccata da Mr. Brooke, ma era più facile obiettare che impedire. Sir James spiegò il motivo per cui un giorno era venuto da solo a pranzare dai Cadwallader dicendo: «Non posso parlare con voi come voglio davanti a Celia, potrebbe ferirla. In effetti non sarebbe giusto». «So a cosa alludete, il Pioneer alla Grange», sbottò subito Mrs. Cadwallader, quasi prima che la parola fosse uscita dalla bocca dell'amico. «È pauroso. Questo essersi messo a comprare fischietti e suonarli nelle orecchie di tutti, starsene a letto tutto il giorno e giocare a domino, come il povero Lord Plessy, sarebbe più riservato e sopportabile». «Vedo che stanno cominciando ad attaccare il nostro amico Brooke sul trumpet», disse il pastore, sdraiandosi all'indietro e sorridendo con calma, come avrebbe fatto se fosse stato lui a venire attaccato. «Ci sono dei tremendi sarcasmi contro un proprietario terriero che vive a meno di 100 miglia da Middlemarch, il quale riceve gli affitti e non fa alcun investimento. Vorrei davvero che Brooke lasciasse perdere, disse Sir James con un cipiglio che indicava una leggera irritazione. Ha davvero intenzione di farsi candidare, fece Mr. Cadwallader. Ieri ho visto Fairbrother, anche lui è piuttosto Whig, sostiene Brougham e il sapere utile, questo è il peggio che so di lui, e dice che Brooke sta mettendo su un partito piuttosto forte. Bulstrode, il banchiere, è l'uomo di punta, ma lui pensa che Brooke sarebbe sconfitto per una candidatura. Esattamente, disse Sir James con serietà. Ho indagato sulla cosa perché in precedenza non ho mai saputo nulla sulla politica di Middlemarch. Io mi interesso della contea. Ciò su cui conta Brooke è che hanno intenzione di mettere alla porta Oliver perché è un seguace di Peel. Ma Hawley mi dice che semmai mandano al governo un Whig, sarà sicuramente Baxter, uno di quei candidati che provengono da Dio sa dove, ma che ce l'ha a morte con i ministri ed è un parlamentare esperto. Oh, lei è piuttosto rozzo, si è dimenticato con chi stava parlando. Ha detto che se Brooke voleva una batosta, poteva averla pagando men che andando ai comizi elettorali. Vi ho avvertiti tutti, disse Mrs. Cadwallader, agitando le mani in fuori. Ho detto a Humphrey tanto tempo fa, Mr. Brooke farà un tuffo nel fango. E adesso l'ha fatto. Beh, gli sarebbe potuto venire per la testa l'idea di sposarsi, disse il pastore, e questo sarebbe stato un pasticcio più grave che un po' di amoreggiamento con la politica. Può darsi che lo faccia dopo, disse Mrs. Cadwallader, quando sarà uscito dal fango con la malaria. Ciò di cui mi preoccupo maggiormente è la sua dignità, disse Sir James. Naturalmente mi preoccupo ancora di più a causa della famiglia. Ma adesso sta diventando vecchio e non mi garba pensare che si esponga. Andranno a rivangare tutto contro di lui. Penso che sia inutile tentare di persuaderlo con qualsiasi mezzo, disse il pastore. C'è un così strano impasto di ostinazione e di volubilità in Brooke. Lo avete sondato sull'argomento? Beh, no, disse Sir James. Provo un senso di pudore a dare l'impressione di imporre qualcosa. Ma ho parlato con questo giovane Ladislav di cui Brooke sta facendo un factotum. Ladislav sembra abbastanza intelligente per qualsiasi cosa. Ho pensato che valeva la pena sentire cosa aveva da dire. E lui non è dell'idea che Brooke si presenti questa volta. Penso che lo convincerà, penso che la candidatura possa essere evitata. Lo so, disse Mrs. Cadwallader facendo un cenno col capo. Il membro indipendente non ha imparato abbastanza bene a memoria i suoi discorsi. Ma questo, Ladislav, ecco un'altra faccenda seccante, disse Sir James. Abbiamo invitato due o tre volte a cena al palazzo. A proposito, lo avete conosciuto come ospite di Brooke e parente di Casabo, pensando che stesse solo facendo una visita di sfuggita. E adesso scopro che sulla bocca di tutti è Middlemarch come direttore del Pioneer. Ci sono delle storie che circolano su di lui. Un pennaiolo straniero, un emissario dall'estero e non so cosa. Casabo non gradirà questo. In effetti c'è un po' di sangue straniero in Ladislav, ribatté Sir James. Spero che non abbracci posizioni estremiste e si tiri dietro Brooke. Oh, è un giovincello pericoloso quel Mr. Ladislav, disse Mrs. Cadwallader, con le sue arie operistiche e la sua lingua pronta. Una specie di eroe byroniano, un cospiratore amoroso, mi pare, e Tommaso d'Aquino non va pazzo per lui. Me ne sono potuta accorgere il giorno che fu portato il quadro. Non mi va di affrontare l'argomento con Mr. Casabo, disse Sir James. Lui ha più diritto di interferire di me, ma è tutta una faccenda spiacevole. Quale veste mostrare per chiunque abbia dei parenti per bene? Uno di quei giornalisti. E basti guardare Keck, che dirige il Trumpet. L'ho visto l'altro giorno assieme a Hawley. Quello che scrive è piuttosto sensato, credo, ma è un tipo così spregevole che avrei voluto che fosse dalla parte sbagliata. Cosa potete aspettarvi da questi insignificanti giornali di Middlemarch? Disse il pastore. Non credo che potreste indurre un uomo di grande levatura da nessuna parte a scrivere su argomenti che realmente non gli premono e per una paga che gli permetta a malapena di sopravvivere. Esattamente. È questo che rende così irritante il fatto che Brooke abbia messo in un impiego di quel genere uno che in certo modo è imparentato con la famiglia. Per parte mia, penso che Ladislav sia piuttosto stupido ad aver accettato. È colpa dell'Aquinate, disse Mrs. Cadwallader, perché non si è servito della propria influenza per far nominare Ladislav attaché o mandarlo in India. È così che le famiglie si sbarazzano dei giovanotti piantagrane. Non si può sapere fino a che punto possa arrivare il guaio, disse Sir James con aria ansiosa. Ma se Chesebo non apre bocca, io cosa posso fare? Oh, mio caro Sir James, disse il pastore, non diamo troppa importanza a tutto questo. È abbastanza probabile che tutto finisca in fumo. Dopo un paio di mesi, Brooke e quel signorino Ladislav si stancheranno l'uno dell'altro. Ladislav prenderà il volo. Brooke venderà il Pioneer e tutto si sistemerà di nuovo come al solito. C'è una buona probabilità che non gli piaccia sentirsi sfuggire via il denaro, disse Mrs. Cadwallader. Se sapessi l'ammontare delle spese per le elezioni potrei impaurirlo. È inutile assillarlo con paroloni come esborso. Io non parlerei di flebotomia, gli vuoterei addosso un barattolo di sanguisughe. Ciò che a noi, brava gente tirchia, non va. È che ci succhino i nostri quattro spiccioli. E non gli piacerà che si vadano a rivangare delle cose contro di lui, disse Sir James. C'è l'amministrazione della sua proprietà, hanno già cominciato a sparlare di quella ed è davvero un dolore per me stare a vedere. È una seccatura proprio sotto il naso. Penso che uno sia obbligato a fare il massimo per la propria terra e gli affittuari, soprattutto con i tempi duri che corrono. Forse il Trumpet potrà indurlo a cambiare sistema. E da tutto questo verrà un qualche bene, disse il pastore. So che ne sarei felice, sentirei meno mugugni quando mi pagano le decime. Non so cosa farei se non pagassero i soldi invece che in natura a Tipton.